30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. 22 milioni di barili di greggio venduti sul mercato internazionale dal giorno dell'indipendenza ad oggi per un controvalore di 2 miliardi e 140 milioni di dollari. Si tratta del primo comunicato sulla produzione nazionale firmato dal ministro del petrolio di Giuba, Stephen Dieu Dau. La Repubblica del Sud Sudan si è formalmente separata da Khartoum il 9 luglio scorso dopo oltre 30 anni di guerra civile. Questa sera parliamo di Sud Sudan e lo facciamo da un posto particolare perché siamo a Giuba. Giuba, la neonata capitale di un paese che non ha ancora compiuto 100 giorni, lo farà il 18 di ottobre, di quello che è l'ultimo nato del consesso delle nazioni, come si sarebbe detto una volta, il 54esimo paese africano. Un paese con una complessità enorme che riguarda la definizione stessa dei suoi confini, che riguarda la sicurezza, che riguarda la sanità, l'educazione, insomma un paese estremamente povero eppure sorprendentemente ricco di persone interessate. Mi spiego, Giuba è una capitale piccola, piena di stranieri, con una grande attività, con un grande fermento, in cui tutto si può fare, mi ha detto più di un businessman cinese, brasiliano, piuttosto che americano, tutto va costruito. Questa sera ne parliamo con un taglio specifico, che è anche quello che ha unito questa settimana di racconti per Radio 24, attraverso Amref Italia. Abbiamo con noi Mario Raffaelli, che è il presidente di Amref Italia. Buonasera. Buonasera. E Tommy Simmons, che è il direttore di Amref Italia, una lunga esperienza africana. Buonasera a voi. Allora, Mario Raffaelli, ripartiamo da questo numero, 2,14 miliardi di dollari. Ecco, tutto questo è la ricchezza di un paese che però ha tanti altri numeri di cui parlavamo poco fa. Certo, questa è la caratteristica che tutti conoscono, che fa sì che le entrate sul Sudan siano per il 98% dipendenti dal petrolio. E evidentemente accanto a questo ci sono le statistiche di un paese che esce da una lunghissima guerra civile interna, che ha raggiunto l'indipendenza appunto a 100 giorni e che mette uno accanto all'altro numeri che possono anche essere terrificanti. Basti pensare che l'80% delle persone non hanno l'accesso ad una latrina, che il 30% delle persone non hanno accesso alla luce, che il 51% delle persone vive sotto la soglia della povertà, che c'è un tasso ancora di analfabetismo altissimo, in particolare per le donne, e quindi c'è una mancanza enorme di quadri per lo sviluppo di un paese, cosa che è essenziale proprio per la condizione in cui si trova il Sudan. Io voglio ricordare che in un bellissimo libro di Collier, intitolato L'ultimo miliardo, ed è appunto sulle cause del sottosviluppo in Africa, Collier identifica 5 cosiddette trappole per il sottosviluppo, e il Sudan con un record può contare tutte 5, perché appunto esce da una guerra civile, perché dipende da un'unica fonte di reddito, perché ha una bassa qualità appunto di quadri, e perché è circondato da cattivi vicini e perché non ha accesso al mare. Quindi una sfida che potrebbe sembrare impossibile, ma invece, come giustamente l'hai sottolineato, c'è questo grande entusiasmo, questo grande attivismo sia interno che internazionale, che dipende da due cose sostanzialmente. La prima, dal fatto che la battaglia decennale appunto del Sud Sudan per l'indipendenza è una di quelle cause che ha visto diciamo una grande simpatia internazionalmente e che è alla base del grande impegno internazionale a partire dagli Stati Uniti, che ha reso possibile l'accordo di pace. Il secondo, dal fatto che internamente c'è questa grande volontà di trasformarsi da movimento che è stato essenzialmente per anni un movimento militare in un movimento politico, con anche le difficoltà che questo comporta, a partire appunto dal riciclare un personale e un modo di gestire le cose, che è quello tipico dei movimenti militari, in un movimento civile. Da questo punto di vista però credo che, con tutte le difficoltà che ci sono, ci sia intanto una consapevolezza da parte dei dirigenti del Sud Sudan. Negli incontri che abbiamo avuto a livello di ministri proprio in questi giorni sono apparse chiare due cose. La prima, la convinzione che tutto possono fare tranne che fornire argomenti per una nuova escalation di scontri con il nord, il che è una cosa importante perché sappiamo che nel nord ci sono ancora focolai di tensione che potrebbero portare a una ripresa di ostilità fra i due paesi appena separati. La seconda è che c'è la consapevolezza che esiste una finestra di opportunità di 2-3 anni durante i quali questo entusiasmo internazionale potrà portare investimenti, aiuti, e dopo 3-4 anni evidentemente, ce l'hanno detto loro, e quindi questa è una cosa molto importante, sanno di dover cominciare a contare sulle loro gambe. Ovviamente in questo contesto quello che possiamo fare noi, organizzazioni come la nostra, è quello di cercare di intervenire proprio in quei settori che sono stati finora trascurati, perché va detto che da una parte il dato è il 98% appunto di risorse petrolifere, ma dall'altra, se guardiamo come nel primo bilancio queste entrate sono state utilizzate, vediamo che i settori privilegiati sono la sicurezza con il 26%, e sono rule of law, che è sempre legato diciamo alla sicurezza, è l'11%, e per la sanità il 4% per la salute, e quindi è un dovere quello di intervenire per aiutarli a recuperare questa situazione che può essere difficile. Un percorso evidentemente molto lungo che Tommy Simmons in realtà percorre già da qualche anno con Amref Italia, ma anche con una presenza personale che ci riporta agli anni 90. Ecco, com'era in breve il Sud Sudan al suo arrivo in questo paese nel 98? Che percorso ha fatto e a che punto siamo? Beh, il Sud Sudan a metà degli anni 90 era un paese molto frammentato, le principali città e i posti di frontiera erano occupati dalle truppe governative di Khartoum e le zone rurali erano occupate dall'esercito dei ribelli. Molte divisioni all'interno dei ribelli, divisioni tribali, divisioni anche fomentate dal governo di Khartoum per fini militari. E le zone rurali erano assolutamente sottoservite, la guerra vi passava periodicamente, nella stagione secca il governo attaccava, nella stagione delle piogge il governo si rifugiava nelle città fortezza e i guerriglieri occupavano il territorio. Noi abbiamo iniziato una scuola di formazione in questo contesto, perché nel contesto di una grandissima povertà e di interventi di emergenza da 20 anni non si faceva formazione, per cui non esisteva nessun quadro professionale per gestire la sanità, per occuparsi delle vaccinazioni, dei parti, di tutte le necessità che c'erano, e abbiamo iniziato una scuola nel 1998 in una zona occupata dai ribelli e relativamente stabile. Lo abbiamo fatto per formare i quadri sanitari dentro il paese, per evitare che poi lasciassero il paese con delle qualifiche esterne, e abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati perché abbiamo decuplicato l'organico di alcuni dei quadri sanitari. Detto questo, nonostante 12 anni di intervento, di formazione continua e di decuplicazione dei quadri che esistevano quando abbiamo iniziato questo percorso, di questo passo per il quadro principale che formiamo, che sono gli assistenti medici, ci metteremo 20 anni a raggiungere un organico minimo necessario al paese. Abbiamo verificato anche col Ministero della Sanità in questi giorni che per esempio per formare il numero di ostetriche e di levatrici necessarie al paese ai ritmi attuali, per raggiungere l'organico completo ci vorranno 66 anni. Questo è un paese, a proposito di numeri, in cui i numeri sono pesanti. Qualche giorno fa ne abbiamo parlato nel corso anche degli appuntamenti all'interno dei giornali radio. I numeri della mortalità al parto sono i peggiori al mondo. Sono assolutamente i peggiori al mondo, e in certe zone praticamente ogni donna adulta in età fertile, una su sei morirà di parto o muore di parto. È una cifra assolutamente scandalosa, enorme, ma trattandosi di un paese anche senza infrastrutture, con un bassissimo tasso di educazione, senza le risorse sanitarie formate per aiutare in questo contesto, con spesso una cattiva alimentazione e un peso di lavoro quotidiano, sono cifre che sono la realtà dei fatti. Questa dunque la realtà dei fatti in questa nazione che, lo ricordo, pur essendo di fatto stata ritagliata da quello che era il più grande stato dell'Africa, e che non lo è più, è diventato il secondo dietro l'Algeria, il Sud Sudan oggi è un paese grande due volte l'Italia, circa 600.000 chilometri quadrati, ha una popolazione estremamente ridotta di 8 milioni di abitanti circa, anche se magari ripartiamo subito dopo proprio dal tema della popolazione, perché di questa popolazione di fatto è attraversata da un cambiamento continuo che è dato dai ritorni, i ritorni della popolazione che dal nord e dai paesi confinanti ritornano appunto a Giuba, nella capitale, ma naturalmente in tutto il territorio. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera, rieccoci qua dunque in questo appuntamento particolare che registriamo a Giuba, lo ricordo, capitale del Sud Sudan, l'ultima capitale dell'Africa. Con me questa sera Mario Raffaelli, Tommy Simmons, che attraverso Amref Italia portano una serie di progetti e anche di esperienze che sono di molti anni in Africa. Raffaelli, stavamo parlando dei ritorni. Ora, definire i numeri in un paese come questo è sempre complesso, chiedere quanti abitanti avete, quali percentuali, sembra persino, come dire, a volte grottesco, perché questa è una situazione di trasformazione assoluta. Ogni giorno arrivano displaced persons, le cosiddette, appunto, sfollati dall'interno o dall'esterno del paese, e questo è uno dei grandi problemi di oggi. Sì, perché dal punto di vista statistico si parla di circa 8 milioni e mezzo di sudanesi, però appunto le statistiche cambiano quasi mensilmente. Ne abbiamo avuto conferma anche nelle nostre visite sul campo. A Maridi, per esempio, ci è stato detto che nella contea la popolazione è raddoppiata nell'ultimo anno. Fare cifre, come diceva lei, è difficile, ma si sa che al nord stavano alcuni milioni di persone, molte sono già rientrate per votare al referendum, ma molte altre stanno rientrando, ed evidentemente nella misura in cui questo progresso sarà visibile è anche possibile che diventi una forma di attrazione ancora maggiore, perché paradossalmente se il Sud Sudan si dimostrasse un paese in grado di avere stabilità e progresso, potrebbe attirare molto più che il Sudan del Nord, che è attraversato ancora adesso da conflitti importanti e pericolosi, come quelli ancora aperti del Darfur e come quelli che riguardano in qualche modo indirettamente il sud, del Sud Kordofan e del Blue Nile. Quindi evidentemente saper affrontare questo ritorno è una emergenza nelle emergenze, può essere anche una possibilità, perché fra queste persone che tornano c'è anche una discreta quantità di quadri formati al nord, proprio perché la politica, diciamo, di discriminazione che il nord usava nei confronti del Sud Sudan è stata tale che ha offerto chance di lavoro qualificato alle persone che si recavano appunto a Khartoum. E quindi è una sfida nella sfida da affrontare. Ecco, in tutto questo, nella capitale di un paese che, se le statistiche fossero aggiornate, sarebbe probabilmente tra i 5 più poveri del mondo, per tutta una serie di ragioni, dicevo, in questa capitale ogni giorno dall'aeroporto, in fase di costruzione, di trasformazione anche lui, scendono businessmen provenienti da tutto il mondo. Gli alberghi, che sono per lo più dei compound di cantieri trasformati in alberghi, costano tranquillamente $150 e nessuno si fa difficoltà in fondo a chiederli. Che cosa attira tutte queste persone a Giuba? Ma attira da un punto di vista generale il fatto appunto che sia uno stato nascente, e come tutti gli stati nascenti si offrono grandi possibilità di arricchimento in tempi rapidi. Su scala minore, io ricordo l'esperienza in Mozambico quando si segnò l'accordo di pace e negli 2-3 anni successivi ci fu un afflusso incredibile dall'esterno, perché evidentemente era un paese che usciva dalla paralisi e si potevano fare dei guadagni dalle cose più banali come aprire un negozio o un albergo, e da qui il ragionamento che fa lei dei prezzi. Evidentemente, essendoci una grande richiesta, si sparano dei prezzi assurdi per le condizioni che vengono offerte. Ma questa è una situazione che è destinata a durare non molto. Diverso invece è l'interesse dei businessmen, in particolare dei cinesi. Noi sappiamo che la Cina è stata presente qui anche prima. Gran parte del petrolio, diciamo, che si ricava da questo paese c'è perché i cinesi, durante il periodo dell'embargo, quando le compagnie occidentali non venivano in Sudan, venivano invece qui e hanno potuto sfruttare questa situazione. E ovviamente dietro alla Cina ci sono l'India, il Brasile, cioè quei paesi emergenti che, come in Sudan, sono presenti un po' in maniera crescente in tutta l'Africa. Questa è la grande novità. Un po' meno presente l'Europa, che invece dovrebbe avere un ruolo maggiore di quello che ha, anche perché, diciamo, questa presenza a livello di possibili interventi economici è l'altra faccia di una medaglia costituita dall'influenza politica. e non è un caso che di fronte alle tensioni che permangono tutta la comunità internazionale più avvertita indichi la necessità di avere non solo una presenza dei paesi tradizionali, quelli che hanno fatto l'accordo di pace, gli Stati Uniti, la Norvegia, l'Inghilterra, anche la Cina, perché appunto è uno stakeholder ormai inevitabile in questo paese. La Cina è presente, presente come? Lo si vede, si parla con appunto gli uomini d'affari cinesi, i quali devo dire non si nascondono nemmeno come in altre zone del mondo e sono disponibili a raccontare. Ci hanno parlato di progetti che riguardano il Nilo, il grande fiume ovviamente, che non è solo una formidabile risorsa d'acqua, ma è una vera e propria autostrada in un territorio che di strade ne ha ben poche. Insomma, 3 anni, dice Mario Raffaelli, per questa sorta di luna di miele della comunità internazionale. Dall'altra parte voi fate i conti invece con dei progetti a lunghissima scadenza. Tommy Simmons. A partire dall'esperienza della formazione, dato che non abbiamo un numero sufficiente di candidati per le scuole di formazione, perché un minimo di formazione scolastica è necessaria per formare personale sanitario, stiamo avviando delle scuole, dei collegi femminili, perché le donne sono totalmente sottorappresentate in tutti i quadri della società sudanese, per aumentare l'organico e la capacità del paese proprio di beneficiare e di sostenere tutte le necessità del paese. Cominciamo con 2 collegi femminili dove ci saranno 200 ragazze per un periodo di 4 anni di formazione. Garantiremo almeno 10 anni di sostenibilità di questa scuola per permettere al paese appunto di camminare sulle proprie gambe. Noi cominciamo con 2 scuole. Come minimo ce ne vorrebbero 80. Oggi solo il 4% delle ragazze finisce la scuola primaria all'età di 14 anni, per cui se 100 ragazze iniziano le scuole elementari, solo 4 finiscono la terza media e 2 iniziano ad andare alle scuole secondarie. Non si può gestire un paese, non si possono gestire i servizi sanitari, non si può gestire nulla in questo tipo di cose, per cui partiamo dalle radici di uno dei tanti problemi. Per un lavoro che evidentemente è lungo. Con Mario Raffaelli vorrei concludere su un tema, lei l'ha accennato, la presenza della Cina, del Brasile, degli Stati Uniti, l'Europa nella sua forma appunto comunitaria. L'Italia in tutto questo? Ci sono tracce d'Italia? Io non ne ho trovate. Ho chiesto in giro nella mia settimana a Giuba, ma ho avuto una sensazione appunto di assenza. Ma è un problema che lei ha visto qui, che si vede anche in altre parti dell'Africa. Non c'è dubbio che rispetto a qualche anno fa la presenza italiana è minore, un po' perché i fondi della cooperazione sono stati tagliati drasticamente e un po' perché si è spenta un po', io credo, quella presenza che una volta faceva dell'Africa un partner cercato dall'Italia, voluto, perseguito. E basti pensare che per la prima volta nella storia non abbiamo avuto un viceministro incaricato per l'Africa. So che è stata recentemente approvata la nomina di un rappresentante, anche se non di un'ambasciata vera e propria, ma di un rappresentante che dovrebbe tra breve essere presente e dovrebbe, speriamo, cercare di cominciare a colmare questo vuoto che lei ha visto, che sicuramente c'è e che è un problema per un paese che storicamente ha sempre avuto grandi rapporti con l'Africa e con il Sudan in particolare. Prendiamoci ancora un ultimo minuto invece per un altro aspetto, che è quella della posizione, il ruolo geopolitico del Sud Sudan, che oggi naturalmente ha le prese con la sopravvivenza, ma è un paese da 6 confini, un vero e proprio crocevia nella politica africana. Lei cosa ne pensa? Assolutamente, di nuovo dimostra questo fatto l'interesse e l'impegno assoluto che ha l'Unione Africana e nella persona del Thabo Mbeki, l'ex presidente del Sudafrica, che presiede il team dell'Unione che deve seguire, diciamo, i seguiti del processo di pace, e del presidente dell'Etiopia, perché questa è una zona cruciale. L'interesse del Kenya, per esempio, e dell'Uganda è altissimo, sia per le possibilità del futuro, si parla di una linea petrolifera che per sottrarre il Sudan al controllo del nord porti il petrolio verso l'Oceano Indiano. L'Uganda ha un interesse come vicino, il Congo, che terrà le elezioni a novembre, è, come si sa, una polveriera sempre presente. Il Sudan sarà uno degli attori importanti importanti per la revisione degli accordi sull'uso delle acque del Nilo, che è un altro tema che riguarda una decina di paesi, e quindi assolutamente un paese centrale in una zona difficilissima e critica come quella del Corno d'Africa in senso allargato. Bene, io ringrazio naturalmente i nostri ospiti, Mario Raffaelli, Tommy Simmons, per avere, come dire, aiutato a cercare di porre un po' di luce su questo neonato Stato africano che dobbiamo in qualche modo conoscere meglio, perché come avete sentito ci sono ottime ragioni di pensare che nei prossimi anni il suo ruolo sarà maggiore e centrale in questa parte del mondo. Con questo abbiamo davvero chiuso questa puntata registrata da Giuba, lo ricordo, la neonata capitale del Sud Sudan. Alla prossima settimana.